Eravamo le due foglie ultime a cadere d'un fiato. Ora che sono solo, uno sbandato al vento, la musica sfoglia, foglia per foglia preziosa del mio lamento. Come fossi in un albero in inferno che inchina le foglie d'autunno al cadere davanti a un ferro, così io davanti al cemento, redento per te, miserabilmente memento. Il tempo qua suona infinito come una comunione e un'ostia per chi ha come me sbagliato, perché chi ha un urlo dentro esplodendo d'un fiato è come se spezzasse un vetro specchiante mille nodi riflessi di silenzi. Ecco, gli altri fanno come un labirinto e non c'è via d'uscita della vita se non le frasi scritte a matita, mentre dico allo specchio rotto: ci sei, ce la farai a ogni frammento a superare rissa e guai e risa. Mai di ciò non ne avrai mai più, e più mai sia te stessa a testa alta e occhi negli occhi combatterai con lacrima di Maria e sangue occulto nero come in un fumo del diavolo, diventando urlo alato, diventando urlo alato. Eravamo nel peccato, le due foglie ultime a cadere d'un fiato. Ora che sono solo uno sbandato al vento, la musica sfoglia foglia per foglia preziosa del mio lamento. Come fossi un albero in inferno che inchina le foglie d'autunno al cadere davanti a un ferro, così io davanti al cemento redento per te miserabilmente memento. Il tempo qua suona infinito come una comunione e un'ostia per chi ha come me sbagliato, perché chi ha un urlo dentro esplodendo d'un fiato è come se spezzasse un vetro specchiante di mille nodi riflessi di silenzi. Ecco, gli altri fanno come un labirinto e non c'è via d'uscita nella vita se non le frasi scritte a matita, mentre dico allo specchio rotto: ci sei, ce la fai a ogni frammento a superare rissa e guai e risa. Mai di ciò non ne farai più mai, se a te stessa a testa alta e occhi degli occhi combatterai con lacrima di Maria e sangue d'occulto nero come il fumo del diavolo diventando urlo alato. Eravamo nel peccato, le due foglie ultime a cadere d'un fiato. Ora che sono solo uno sbandato al vento, la musica sfoglia foglia per foglia preziosa del mio lamento. Come fossi un albero in inferno che inchina le foglie d'autunno al cadere davanti a un ferro, a cadere davanti a un ferro. Come il tempo qua suona infinito, è una comunione, è un'ostia per chi come me ha sbagliato, perché chi ha un urlo dentro esplodendo d'un fiato è come se spezzasse un vetro specchiante mille nodi riflessi di silenzi. Ecco, gli altri fanno come un labirinto e non c'è via d'uscita della vita se non le frasi scritte a matita, mentre dico allo specchio rotto: ci sei, ce la farai e ogni frammento a superare rissa e guai e risa. Mai di ciò che non avrai più mai, se a te stessa testa alta e occhi negli occhi combatterai con lacrima di Maria, sangue d'occulto nero come il fumo del diavolo diventando urlo alato. Con lacrima di Maria e sangue occulto nero come il fumo del diavolo diventando urlo alato, diventando urlo alato. Come fossi un albero d'inferno che china le foglie d'autunno al cadere davanti a un ferro.